creature. Mozart 2009. Catastrofe strofe. Del voodoo. Catastrofe strofe. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole. Penso sia troppo aggressivo il modo come parlo. Pensa che è così perché non stai ascoltando. Lo so che fuggirai molto lontano, come fuggi dentro il pianto. Adesso che ti sto spaventando, perché è così, creatura debole. Il sentimento è morto, l'assurdo stato delle cose che, per come mi ricordo, chi ha creduto nell'amore cosa ha avuto se non torto. Reso cieco all'evidenza il mio tramonto, la sentenza, quando la vita mi hanno tolto senza aver capito veramente, senza scelta. Con quattro parole si disprezza il passato, si spezza la compiuta insensatezza. Figlia di banale, di ignoranza, e il tuo nome è debolezza. Il mio è la bestia sul tuo sogno rosa cola, la rabbia e l'amarezza, che in fondo sono la mia essenza. Cosa mi parli di dolcezza se l'ho persa? Cosa mi chiedi una storia d'amore intesa? Se ogni mio giorno è una battaglia per la sopravvivenza in questo mondo di merda. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Da me, creatura debole, creatura debole. Stavi cercando un'esistenza un po' più facile, ma quella è solo un'utopia di chi è troppo fragile. È un fatto ereditario distorcere le cose come l'equilibrio instabile. Cerca nel vocabolario, non esiste in quanto una contraddizione che ti rende triste intanto. Passano i rancori mentre resta questo canto. In sottofondo, in primo piano, un volto bianco. Come buchi oscuri e il rantolo dell'animale prima dell'attrato, della caccia e dell'attacco, braccando la creatura debole per farmi un passo. Il predatore attende nelle tenebre in agguato, resta immobile ad un passo da chi è già divorato. Sono leggi naturali, non sono io che l'ho inventato. D'altro canto, il forte mangia il debole e la rabbia fotte il branco. Per quello mi hanno immaginato, io bastardo allontanato per non contaminarlo. E dal mio esilio ancora parlo e ancora tu non stai ascoltando, arrancando dietro al tuo sogno americano, che quando un giorno lo raggiungerai avrà comunque il gusto amaro delle bugie che ti racconti. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole, fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole, fuggi via da me, creatura debole. Fuggi via da me, creatura debole. Creatura debole.